l'ultima domanda, che è quella ovviamente da 20 milioni di dollari. A parte il fatto che non vi fermerete mai, perché lo avete proclamato con il titolo dell'album, che cosa vedete adesso, nel futuro, almeno quello vicino, dei Bastard Son of the Oinso? Soprattutto live, nel senso, adesso che il disco c'è e dobbiamo proporlo, e il miglior modo per farlo sentire è sicuramente quello live. È la situazione appunto più reale. E abbiamo già un bel calendario e speriamo di poter continuare ad ampliarlo. E comunque stiamo già lavorando a dei provini nuovi. È che ci siamo accorti nel primo periodo, subito dopo la trasmissione, insomma, che se qualcuno investe su di te, vuole mettere veramente, cioè essere lui il che decide su quello che sta succedendo, e diventi quasi come se ti facessero un piacere. Noi tante volte abbiamo rinunciato a fare promozione in certi tipi di canali, non perché fosse una promozione sbagliata, perché tutti i tipi di promozione di per sé possono andare bene, ma perché non potevamo proporci con la nostra musica essenzialmente. E questo ci ha fatto anche un po' discutere con le persone che lavoravano con noi, perché ci dicevano: ma voi non volete fare la promozione? Perché è un sistema che si basa su certi meccanismi, insomma. Però facendo così io mi sono un attimo scaricato lo stomaco da tutti i nervosismi, da tutte le cose che mi fanno girare le scatole. Stiamo meglio a livello proprio fisico. E poi c'è la passeggiata, i funghi. Sì, i funghi sono buoni. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie. Erano The Bastard Sons of Dioniso, la voce in scena di oggi. Ci ritroviamo domani alla stessa ora.